24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano l'allarme sul batterio Escherichia coli. Le autorità tedesche, nel giorno in cui le presunte vittime sono salite 17, hanno annunciato che i cetrioli andalusi non sono la causa dell'epidemia scatenata dal particolare ceppo di batterio. I produttori spagnoli di frutta e verdura faranno ora causa al ministro della Sanità di Amburgo, colpevole di avere puntato il dito proprio sulle verdure provenienti dall'Andalusia. Parleremo anche dell'allarme sulla pericolosità dei telefoni cellulari rilanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e andremo all'Aia, dove domani Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, apparirà davanti ai giudici del Tribunale Penale Internazionale. Per lo sport, il tennis. In semifinale del Roland Garros, lo spagnolo Nadal contro lo scozzese Murray. Da Bruxelles la Commissione europea osserva l'evolversi della crisi del batterio Escherichia coli, mentre le autorità tedesche riconoscono i cetrioli spagnoli non c'entrano nulla. Ad ammettere che i cetrioli spagnoli non erano la causa è stato il ministro tedesco dell'agricoltura Hilse Aigner. La ricerca ricomincia da capo e non si può escludere nulla, ha dichiarato la TV ZDF commentando i risultati delle analisi sugli ortaggi provenienti dall'Andalusia che si pensava avessero causato l'epidemia scatenata dal batterio Escherichia coli. Insomma, avevano ragione i produttori spagnoli che ora minacciano una causa contro le autorità di Amburgo, colpevoli di aver provocato gravi perdite al maggior produttore continentale. Nel frattempo le indagini ripartono e mentre i malati hanno toccato quota 470 nella sola Germania, le presunte vittime sono salite a 17 e le autorità di Berlino cercano di capire cosa hanno mangiato le centinaia di cittadini europei che sono stati contagiati e che hanno tutti contratto il virus sul suolo tedesco tra aprile e maggio. Per i consumatori italiani però c'è poco da temere, come spiega il professor Alfredo Caprioli dell'Istituto Superiore di Sanità di Roma. Si possono difendere con le norme igieniche che prevedono che le insalate da consumare crude siano lavate con molta attenzione. Quello che si può sbucciare, per esempio, sbucciarlo. Paolo Riva, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Paola Testori-Coggi, direttore generale Salute Consumatori della Commissione Europea, ipotizza che il picco di infezione possa essere passato. La sentiamo al microfono di Sergio Nava. La Commissione Europea ha chiesto alle autorità tedesche di continuare e di intensificare le analisi, perché l'unica soluzione è analizzare per trovare dove si trova questo batterio. Una notizia positiva sul fronte dell'impatto umano si può dire che oggi le ospitalizzazioni sono diminuite, quindi il picco dell'emergenza dovrebbe essere passato. E un'altra cosa sicura è che l'emergenza è limitata alla zona geografica intorno alla città di Amburgo. Per l'Italia fino ad oggi non c'è alcun motivo di preoccupazione. Adesso l'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sul rischio cancro derivante dall'uso dei telefoni cellulari. Sentiamo Susanna Lagorio dell'Istituto Superiore di Sanità e responsabile scientifico per l'Italia dello studio Interphone al microfono di Romolo Napolitano. Le radiofrequenze sono utilizzate per la telefonia cellulare, ma anche per le trasmissioni radiotelevisive, per molte applicazioni mediche e industriali. Per quanto riguarda i telefoni cellulari, sono la sorgente di esposizione all'uomo che dà dei livelli più intensi di esposizione ed è per questo motivo che sono stati più studiati. Lei nei suoi studi a quali conclusioni è arrivata? Le conclusioni sono quelle che esiste una debole evidenza di cancerogenicità, la IARC la chiama limitata, tra in particolare glioma cerebrale e neurinoma nel nervo acustico, ma questa associazione non è detto che sia un rapporto causa-effetto, potrebbe essere dovuta a distorsioni, al caso. I cellulari sono nella categoria 2B, pericolosi quanto i sottaceti e il caffè in pratica. I sottaceti non so dirle, il caffè sì. Cosa bisogna fare per ridurre comunque al minimo il rischio? Esistono dispositivi a viva voce, gli auricolari praticamente annullano l'assorbimento di energia elettromagnetica radiofrequenza utilizzata nelle comunicazioni con i cellulari. Voltiamo pagina. Seconda notte in cella per Ratko Mladic nel centro di detenzione del Tribunale Penale Internazionale dell'Aia, dove è stato trasferito martedì sera. Domani la sua prima apparizione davanti ai giudici che accusano il governo serbo. Mladic poteva essere arrestato prima e 16 anni di attesa sono un periodo troppo lungo per la giustizia. Per Ratko Mladic si è aperto il cancello d'acciaio del carcere di Scheveningen e per i sopravvissuti ai crimini commessi dall'ex generale serbo in Bosnia dal 92 al 95 la sua incarcerazione è stato un primo atto di giustizia. A giorni Mladic dovrà comparire davanti alla Corte del Tribunale Internazionale per i crimini commessi nell'ex Jugoslavia, ma si tratterà solo di un'udienza preliminare. Per l'avvio del processo saranno necessari alcuni mesi e non è escluso che possa essere unificato a quello in corso da più di 2 anni contro Radovan Karadzic, suo complice negli anni della mattanza contro i bosniaci musulmani. Elna Ragusin, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La NATO ha deciso di prolungare per altri 90 giorni la missione militare in Libia. Con questa decisione l'alleanza e i suoi partner inviano un chiaro messaggio al colonnello Muammar Gheddafi, ha dichiarato il segretario generale della NATO Rasmussen. Il vice premier e ministro degli interni spagnolo Alfredo Rubalcaba ha avvertito oggi gli indignados accampati a Puerta del Sol da oltre 2 settimane che non potranno rimanere a lungo ancora nella simbolica piazza di Madrid. In dichiarazioni alla radio privata Cadena Ser, Rubalcaba ha ricordato che ci sono proteste crescenti da parte di albergatori, commercianti e abitanti dell'area e richieste di sgombero da parte del comune e della regione di Madrid. Chiusura in calo per le borse europee, di nuovo intimorite per la delicata situazione finanziaria della Grecia. I dati macroeconomici statunitensi e soprattutto quelli sul mercato del lavoro, inferiori alle stime, hanno incoraggiato gli ordini in vendita. Parigi e Francoforte hanno così perso l'1,05%, Londra ha ceduto l'1,02%. Chiusura in ribasso anche per Piazza Affari. Il FTSE MIB ha lasciato sul parterre l'1,15%. Hanno accusato un tonfo del 7,6% le MPS, risentendo del collocamento delle azioni privilegiate da parte della fondazione. Sono inoltre andate male tutte le banche. ST è andata giù dell'1%, ancora sul contraccolpo della performance accusata da Nokia, che è di nuovo arrivata a perdere oltre il 7%, sempre sulla scia del profit warning sui conti del secondo trimestre. I titoli della società di Helsinki però hanno ridotto i danni sul finale allo 0,7% sull'onda dell'ipotesi di un interesse da parte di Microsoft, ipotesi tuttavia smentite. Hanno per contro fatto bene le Diasorin più 1,67% e le Tods più 2,6%. Tra le azioni fuori dal paniere principale non si è arrestata la corsa delle buone società. In 3 sedute i titoli hanno guadagnato quasi il 50%, festeggiando il cambio della azionista di riferimento. Sono andate bene anche le Zucchi, più 7%, dopo l'ingresso del portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, nel consiglio di amministrazione dell'azienda. Eleonora Micheli da Radio Cor per Radio 24, Il Sole 24 Ore. Moody's ha tagliato il rating della Grecia da B1 a CAA1, assegnando un outlook negativo al merito creditizio del paese. È cresciuto il rischio che la Grecia possa andare in default senza una ristrutturazione del debito e questo è il motivo alla base della decisione di Moody's di tagliare il rating del paese alla luce delle difficoltà crescenti che il governo deve affrontare nell'attuazione dei tagli, delle crescenti incertezze sulle prospettive di crescita e un record negativo sul fronte degli obiettivi di consolidamento dei conti pubblici. Lo shuttle Endeavour è atterrato al Kennedy Space Center di Cape Canaveral. Tra i 6 membri dell'equipaggio c'è l'italiano Roberto Vittori dell'Agenzia Spaziale Europea. La manovra è riuscita perfettamente, ha segnato la conclusione della lunga carriera dell'Endeavour. Lo sport adesso con il tennis. Rafael Nadal si è qualificato per la semifinale del Roland Garros. Lo spagnolo campione in carica ha battuto lo svedese Robin Söderling in 3 set. In semifinale Nadal affronterà lo scozzese Andy Murray, che nell'altro quarto di finale ha battuto l'argentino Juan Ignacio Cela. Forfè per Dani Pedrosa al GP di Catalunya. Il pilota catalano della Honda non ce l'ha fatta in sole 2 settimane a recuperare la forma dopo l'infortunio alla clavicola destra fratturata nel GP di Francia. Pedrosa era stato operato lo scorso 18 maggio, ma il consolidamento delle ossa sta procedendo più lentamente di quanto diagnosticato e il pilota spagnolo si è visto costretto a rinunciare alla gara di casa. A questo punto il ritorno in pista dipenderà dalle condizioni della spalla nei prossimi giorni. Suona come un fado tradizionale, ma il testo dei più moderni. Nel Portogallo, in piena crisi, spopola l'inno contro il precariato di un gruppo di nome Deolinda. Si intitola «Parva che su, che stupida sono». «Sono della generazione senza remunerazione», cantano Deolinda. «È già una fortuna poter fare uno stage. Figli, mariti, sto sempre a rinviare». La conclusione è amarissima. «Quanto è stupido un mondo dove per essere schiavo devi studiare». Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Grazie per l'ascolto e un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.